Ciao a tutte, tutti e tutte, benvenuti alla Libreria del Gatto Nero e prima di tutto grazie di essere qui. Questo è un incontro al quale tenevamo particolarmente, anche se quest'anno abbiamo, come dire, tutti incontri che ci piacciono e speriamo che vi stiano piacendo da morire. Questo è un libro per noi importante, un libro che, come qualcuno di voi sa e qualcuno mi ha appena ricordato, è stato quasi un po' adottato da Fahrenheit su Radio 3, lo possiamo dire, da Loredana Lipperini. È un libro che si inserisce comunque in un discorso che noi anche in radio abbiamo trattato ultimamente, che poi è quello dell'incanto e del reincanto. Noi prima di tutto ringraziamo Mariana di essere qui e poi ringraziamo Franco Bertemi, perché qui in libreria gli incontri che si succedono in questo spazio non sono, come dire, voluti, pensati da una persona, ma sono il prodotto della vasta rete di relazioni del collettivo che abbiamo durante l'anno, e quindi tutti questi incontri hanno alle spalle un promotore, una promotrice, un promotore, qualcuno che ci ha segnalato un titolo, l'ha portato alla nostra attenzione, e in questo caso la persona è appunto Franco Bertemi, che, come ricorda anche Mariano nell'introduzione al libro, ha anche potuto vedere le bozze, ha partecipato in qualche modo e quindi è stato un lettore, uno dei primi fortunati lettori, lettrice, lettore delle bozze di questo libro, e che appunto lo ha portato alla nostra attenzione e che quindi sta un po' dietro a questo incontro, e per questo motivo questa sera avrà l'onere e l'onore di avere la maggior parte delle domande. Io ne ho preparata qualcuna che forse farò, però sono un po' stanca dopo questi primi 11 giorni della festa e quindi vi chiedo scusa in partenza. Quest'anno è una festa che sta andando molto bene, è esplosa, e per noi volontario è anche, oltre che una gioia, anche una grande fatica, come dire, portarla a termine ed esserci tutte le sere, tutte le notti, tutti i pomeriggi e spesso anche la mattina. Allora, io cedo adesso il microfono a Franco, cercheremo di andare un po' per ordine e di lasciare soprattutto modo a Mariano di raccontarci il filo, il pensiero, l'idea, l'emozione, anche la visione che sta dietro, sia nel lavoro del suo sito, sia in questo libro, al suo recupero, come dire, alla sua indagine su questo episodio storico del mentalismo e del mesmerismo, che è molto avvincente, molto interessante, ma soprattutto direi per quello che lui mi ha tratto e che è quello che ci ha convinte a portare questo libro in festa, ovvero la necessità di cominciare, di ritornare ad avere narrazioni nostre, narrazioni che ci rappresentino, l'importanza anche in questo momento storico così grigio e cupo, direi nero più che grigio, no? Appunto di tornare a raccontare come dire, il margine, come poi diremo dopo, che è il margine che credo abitiamo tutte e tutti e tutto noi, antagoniste ma non solo. E quindi cedo per primo a te il microfono, ringraziando ancora una volta voi per essere qui e anche loro per essere qui. Grazie Pamela, saluto anch'io tutti e tutte, e credo che la prima cosa che mi tocchi sia presentare Mariano per chi non lo conosce. Mariano Tomatis è un illusionista ed è però anche uno storico e un critico dell'illusionismo, ha pubblicato molti volumi, questo è, Mariano lo considera il terzo volume della collana Mesmer, quindi prima ce ne sono due dedicate appunto a Mesmer e al mesmerismo. Negli ultimi anni si dedica particolarmente a mettere in luce come nell'ambito dell'illusionismo pesi diciamo, l'impronta del dominio eteropatriarcale. Uno dei primi lavori in cui Mariano ha concentrato l'attenzione su questo punto è un video che La donna metà, che è appunto un video su un numero classicissimo dell'illusionismo che tutti e tutte conosciamo, che è appunto la donna che viene segata a metà e che per magia del mago maschio di turno viene poi ricomposta, e da lì in poi ha iniziato una riflessione che è proseguita in tutti questi anni. Il libro di cui parliamo questa sera appunto si intitola Incantagioni, e il punto di partenza è la condizione di innominabili, che storicamente è la condizione vissuta dalle donne. E il primo compito che Mariano si è dato era appunto quello di scovare il nome di sei donne, veggenti, sibille, sonnambule, quindi persone che avevano a che fare con l'ambito di interesse e di ricerca di Mariano, che sono poi le protagoniste di questo libro. E da subito, però Mariano lo anticipo, però appunto leggendo è un passaggio importante, quella del recuperare il nome di queste innominabili risulta essere solo un tassello di quello che è invece il mosaico che va costruito per dare la dignità che meritano le vite di queste sei donne. Ed è un tassello che va maneggiato con cura ed attenzione, perché la questione del nome è una questione scivolosa, se vogliamo, perché da una parte in alcuni casi un nome può nascondere una scelta di mimetismo necessario, in altri casi sappiamo bene può essere anche una gabbia, una vera e propria gabbia. Quindi Mariano si rende conto e nel libro si trova a dover non tanto solamente recuperare i nomi di queste donne, ma appunto di scriverne la vita, o meglio di scrivere un racconto delle loro vite che sappia mettere in risalto il movimento verso la rivendicazione pubblica del loro diritto al potere. E qui chiaramente non penso al potere con l'immagine maschile di un uomo grande e grosso che perpetua un uomo più debole o una donna, ma come la capacità di prendere parte a un discorso dal quale dipende l'azione e il diritto a essere ascoltate. Mariano questo compito nel libro lo assolve dal mio punto di vista benissimo, con determinazione, ma al contempo con rispetto verso le vite di queste sei donne. Passiamo alle domande, inizierei con due domande. Allora, Mariano, la prima cosa che volevo chiederti è se tu sei partito consapevole di cosa ti avrebbe richiesto questo viaggio di ricerca, o è stato durante il viaggio di ricerca che hai via via acquisito uno sguardo più lucido e consapevole per raccontare le vite di queste donne. La seconda, che è legata, era qual è la disposizione che ti ha guidato nelle ricerche. Anzi, fermo, ci aggiungo la terza domanda, che comunque è legata alle prime due, e così sgombriamo subito il campo. Da maschio etero cis, come me, per cui faccio rispondere a te, però ti volevo chiedere come hai fatto i conti con questa tua condizione mentre eri al lavoro di ricerca e scrittura, e in pratica ti chiedo come hai materialmente affrontato il fatto di porti come alleato di queste sei donne. Allora, intanto grazie per essere accorsi così numerosi. Entrambe avete sottolineato l'inizio di questo viaggio. Io sono partito da un documentario che ho scritto nel 2013, che si intitola Donne a metà, ed è un documentario scritto da un uomo che si rivolge soprattutto agli uomini, mettendoli davanti a una storia che raccontiamo, ci sentiamo raccontare, identica da sempre, cioè noi maschi, ben vestiti, magari molto eleganti, siamo in scena con una donna semisvestita, seminuda, perché con la scusa che quelle nudità devono distrarre l'occhio del pubblico, la invitiamo a distendersi, la seghiamo in due, agiamo violenza su di lei e poi mostriamo che alla fine non è rimasta nessuna cicatrice, per cui in qualche modo tutto si è ricomposto, perché abbiamo in qualche modo dimostrato di avere un potere assoluto su di lei. Questa sarebbe una scena che potrebbe passare inosservata se non ci accorgessimo che non è modificabile in nulla. Quando una donna mette in scena lo stesso numero, sega una donna, cioè non è mai successo che tra i due sessi ci sia un'inversione tra i due generi in scena, a parte delle brillantissime eccezioni che poi racconto anche. Ma io ho sempre osservato da illusionista questa scena con un certo disagio, senza mai però riuscire a verbalizzarlo per bene, quindi mi sono detto, scrivere un documentario è un modo per rifletterci sopra, e ho raccontato questa scena in qualche modo ingaggiando i maschi e guardandoci negli occhi, dicendoci a vicenda: veramente vogliamo continuare a raccontare questa storia? Non c'è niente che possiamo aggiungere per aggiornarlo, per mettere in crisi questa scena, che in qualche modo è una fotografia brutale della realtà che non graffia in nessun modo, reitera e normalizza una scena di abuso sul palco, in qualche modo anche invocando gli applausi. Le compagne che l'hanno visto lo hanno apprezzato e mi hanno anche detto: guarda che noi non siamo solo vittima. E io mi sono reso conto che lì avevo messo in scena solo donne vittime della nostra sega. E allora a quel punto mi sono detto: evidentemente nell'ambito della magia devono esserci delle figure di donne che hanno rifiutato quel ruolo e hanno invece appunto ribaltato il tavolo del mago e preso in mano quella sega per utilizzare le stesse retoriche, gli stessi trucchi, le stesse metodologie per invece imporsi, per cercare di ribaltare quel sistema oppressivo. Oggi vi potrei fare pochi nomi, sono davvero poche e soprattutto non sono famose. Io ho guardato al passato, mi sono chiesto: c'è qualche artista nel passato che ha provato a raccontare una storia opposta, che ha provato a utilizzare gli strumenti che erano in mano ai maschi, cioè la magia, l'inganno, il trucco, la frode, il sotterfugio? Io sono interessato a quegli aspetti essendo un illusionista, non penso alla magia vera, quella lì è roba di Harry Potter o del mago Telma. La risposta che ho scoperto è: sì, esistono, però i loro nomi sono stati cancellati, dimenticati, rimossi, e quindi l'idea di recuperarli era una molla piuttosto eccitante. Per cui io sono partito in un viaggio, un vero e proprio viaggio a tappe, sono 6 le tappe del libro. Parto da Torino, Arles-Orléans, passando attraverso Lione, Montpellier, Tolosa, e in ciascun luogo trovo una di queste donne. La prima che trovo a Torino si faceva chiamare la Sibilla Moderna, ma naturalmente non era nata con quel nome. La prima sfida che mi pongo è: come si chiamava davvero la Sibilla Moderna? E scoprirlo è un casino, perché in tutti i manifesti dell'epoca era chiamata così, c'era il cognome del marito, perché lei era al massimo Madame Mongruel con il cognome del marito, e mi imbatto non in un nome, ma in 3 nomi alla fine. Scopro che costei aveva 3 nomi che le sono stati concessi in 3 momenti diversi della sua vita, con più o meno sua adesione a questi nomi. La prima volta che il suo nome di battesimo compare è perché viene arrestata e processata, e quindi una donna da inchiodare va inchiodata col suo vero nome, sia mai che possa essere infangato il nome del marito. E quindi noi sappiamo chiamarsi Rosalie Lefebvre perché finisce sotto processo, come Vanna Marchi, perché quello faceva, cioè ingannava i clienti dicendo loro che gli avrebbe fatto ritrovare l'amore o la refurtiva perduta. Lei si fa furba dopo questo processo, inizia ad affinare decisamente le sue arti, inizia a esibirsi anche in teatro, cioè lei si faceva pagare un biglietto in teatro per fare numeri apparentemente di lettura del pensiero, previsioni del futuro, eccetera, e per invitare poi le persone nel suo studio privato per occuparsi invece delle cose più intime e private. Quando però si allarga troppo, appunto la ghigliottina del potere cade su di lei e viene processata e condannata. Deve poi rifarsi una verginità, quindi cambia nome. Allora cambiarsi un nome è un modo per riproporsi di nuovo sul mercato della sensitività passando inosservata, e ce la fa. Manda a quel paese il marito, quando a un certo punto si rende conto che questo è solo un peso, era il suo assistente nello studio, per cui era quello che firmava le fatture, le ricevute, eccetera. Per cui fa questo gesto pazzesco di mandarlo a quel paese, lui finirà in malora, lei invece diventerà pian piano la sensitiva dei potenti, e a un certo punto prende un nome completamente diverso e si fa chiamare Clelia Grimaldo. E chi è sta Clelia Grimaldo? Perché un nome italiano, lei che era di Parigi? E gratta gratta scopre che lei durante il tour genovese probabilmente aveva sentito parlare di una protofemminista del 700 che si chiamava Clelia Grimaldo, ed è possibile che lei in questo modo omaggiasse un suo mito personale, una scienziata a cui lei si ispirava. Curioso che una medium si ispiri a una scienziata, no? C'è un po' questo mix. Anche perché si faceva chiamare Sibilla Moderna, perché un conto sono le vecchie Sibille che profetizzavano grazie agli dèi, gli angeli, eccetera. Lei invece era moderna, ovvero lei usava la scienza per fare previsioni del futuro accuratissime. Lei usava il magnetismo animale, una sostanza scientificissima nell'Ottocento, secondo le credenze dell'Ottocento, di cui tutti siamo dotati, stimolando la quale è possibile provocare uno stato mentale chiamato sonnambulismo, all'interno del quale si apre il terzo occhio. E lei in questo stato era appunto in grado in teatro di indovinare la carta scelta, leggere nel libro, nella borsetta di quella signora, prevedere il lancio di un dado dentro un bussolotto, e ovviamente tutte queste cose erano fatte con trucchi da illusionista, ma lei non lo diceva, attribuiva tutto al magnetismo, sostenendo in pubblico di aver utilizzato la scienza, il metodo scientifico, la razionalità per ottenere quei risultati che in passato invece solo grazie a intrugli magici, misticismi era in grado di ottenere. A un certo punto della sua vita torna col cognome del marito, e questo veramente è inspiegabile, ma si fa chiamare Josephine, come la moglie dell'imperatore Napoleone. Quindi c'è questa mania di grandezza molto misteriosa. Perché Josephine? Faccio un'ipotesi a un certo punto, ma anche soltanto andare a capire o indagare sulle ragioni per cui costoro passano da un nome all'altro, in un gioco mimetico, in un gioco di trasformismo, in un gioco sui generi, porta a galla così tanti fatti che il libro è praticamente una raccolta di aneddoti, uno più assurdo dell'altro, sotto i quali però passa il discorso fortissimo di emancipazione di questa donna che, in barba a tutti gli usi dell'epoca, si traccia la sua vita fregandosene della legge, fregandosene... E infatti è solo il primo di 6 esempi di personaggi completamente amorali. Non faccio mai il panegirici di queste donne come degli esempi di vita a cui dobbiamo ispirarci. Sono delle furfanti davanti alle quali però resto incantato per tutto il libro, come davanti a Robin Hood, che ruba, va detto, però ruba le persone giuste. Tu hai anticipato e raccontato la prima storia che presenti, quella della Sibilla moderna. Secondo me questa sera è giusto che tu riesca a raccontare in estrema sintesi le 6 vicende, e non so però quale... Vabbè, no, mi viene in mente, io ho portato 2 dadi, ne basta uno in realtà, sono 6, vi ho detto, tiriamo un dado e lasciamo, affidiamo il caso, dovesse venire uno, di nuovo uno, ne raccontiamo un altro della Sibilla moderna. Guarda, vai, butta questo dado lì dentro, dimmi un po' che cosa scuoti un po', dai un occhio dentro, no, che numero è? 5. Allora, la quinta è la sonnambula, Prudence Bernard. Prudence Bernard avrebbe usato questo dado, perché è un dado che su tutte le facce è il numero 5, questa era proprio una delle sue, perché voleva far parlare di sé. Infatti è l'unica di cui non ho fatto difficoltà a trovare il nome, perché è una che dal primo giorno ha detto: no caro, nome e cognome miei. Mentre tutte in qualche modo sono costrette a usare il nome del marito, col madame, Prudence Bernard si farà chiamare Prudence Bernard dal primo all'ultimo giorno della sua carriera. Di tutte è stata quella che ha fatto più successo in teatro, e infatti era acclamatissima, ha girato tutta la Francia, è stata in Italia, a Torino, è stata la prima mentalista a esibirsi nel nostro paese, a Torino nel 1850, come la Sibilla, 2 anni prima della Sibilla moderna. Per capire che cosa potevate vedere in teatro un secolo e mezzo fa, vi racconto questo aneddoto. A un certo punto il marito entrava in scena con 2 strani cornetti, e uno a guardarlo avrebbe detto: cos'è, una lumaca? Buonasera signore, in francese, buonasera signore e signori, questa sera io e mia moglie vi presenteremo il numero della telepatia escargotica. Escargot sono le lumache. E tutti, non aspettavamo altro. Perché la gente si aspettava di vedere la telepatia delle lumache? Perché qualche mese prima un tizio aveva brevettato un telegrafo che funzionava a lumache. Aveva scoperto che se si fa fare l'amore a 2 lumache e poi le si separa, tra le 2 durante il coito c'è stato uno scambio di magnetismo fluido, grazie al quale se io accarezzo il dorso di questa lumaca, l'altra immediatamente rizza le antenne, perché si è creato un legame mistico, magnetico. Per cui, come ha deciso di brevettare questo metodo il tizio? Ha fatto accoppiare 21 coppie di lumache, poi sul dorso di ciascuna coppia ha scritto la stessa lettera, quindi c'erano le 2 A, le 2 B, le 2 C, eccetera, le ha separate e ha creato 2 ruote, ciascuna con 21 lumache corrispondenti all'altra. Questo era un telegrafo straordinario, perché accarezzando la A, la B e la C, a qualunque distanza si fosse trovato il secondo quadrante, le lettere A, B e C si sarebbero sollevate e quindi si potevano inviare messaggi con una velocità assoluta. Per cui, durante la conferenza stampa di presentazione di questo telegrafo escargotico, ben prima che nasca l'idea del wireless, la radio non c'era ancora, siamo nel 1850, tutto al massimo era via cavo, l'idea della radio era lungi dal venire, lui presenta questo oggetto dicendo: immaginate di installare questa seconda ruota a New York, da Parigi si manda qualunque messaggio, basta dire alla persona a quell'ora: presentati lì e sii pronto, perché tutti i pomeriggi alle 4 ti manderò un messaggio, e potete comunicare con 21 lumache. Si fa pagare il progetto, il brevetto, eccetera, e naturalmente scappa con la cassa, perché così si fa in queste situazioni. Era una truffa, naturalmente la dimostrazione che aveva fatto in questa stanza era pilotata, Ma la notizia esce su tutti i giornali, la smentita no. Quindi per mesi a Parigi si vocifera di questo miracolo. Uno arriva a dire: ma pensate se riusciamo a trovare delle lumache abbastanza piccole da installarle sul quadrante di un orologio. Cioè nel 1850 hanno anticipato gli smartwatch. C'era l'idea di poter comunicare a distanza di un secolo e mezzo. Mi viene in mente che facendo delle orge tra tante lumache si potrebbe immaginare internet, cioè non più soltanto comunicazione da punto a punto, ma comunicazione a rete. Per cui immaginate la potenza immaginifica di questa cosa, che era una bugia, ma era una bugia che aveva reso dei soldi veri al tizio e che però resta nell'aria per tutta Parigi come una cosa vera. Che cosa fa Prudence Bernard? È sempre sintonizzata sul dibattito pubblico, si rende conto che è una voce che va munta, perché c'è gente pronta a spendere per vedere questa cosa in atto, e col marito dice: senti, fino a ieri indovinavamo le carte mentalmente raccontando del magnetismo animale, da domani raccontiamo che facciamo come le lumache. In fondo siamo sposati, nessuno può mettere in dubbio che tra di noi c'è uno scambio di fluido continuo. E quindi con questi manifesti, insomma un po' allusivi, dicono: voi venite al culmine del nostro spettacolo sotto il passaggio Jouffroy di Parigi alle ore 22 spaccate. Andrà in scena la telepatia scargottica, non perdetevela, perché è l'unico posto al mondo dove si può vedere. E quindi immaginate questo tizio che entra con queste due cornette e i due che presentano lo stesso numero di mentalismo che fino al giorno prima avevano attribuito al magnetismo animale, e invece loro riescono a trarre profitto e denaro da una balla, da una bugia, da una truffa scientifica che però era molto credibile. Quanto possiamo giudicar male questi parigini che c'erano cascati? Io dico pochissimo, perché oggi i computer quantistici funzionano esattamente sullo stesso principio, cioè il fenomeno dell'entanglement quantistico è esattamente la stessa cosa. Non sono lumache, ma sono atomi ed elettroni con un certo spin. Oggi la comunicazione a distanza quasi immediata, a una velocità pari a quella della luce, è utilizzata correntemente grazie all'entanglement, che funziona così: si accarezza l'atomo e l'altro reagisce contemporaneamente. Quindi erano ingenui solo perché avevano creduto alle lumache, mentre noi siamo illuminati perché crediamo agli atomi. In tutto il libro naturalmente parlo dell'Ottocento, ma strizzo continuamente all'occhio a noi oggi per cercare di guardare quella credulità con un po' di misericordia, per dire: non è che oggi stiamo facendo gli stessi errori, o comunque in fondo le storie che ci affascinano sono sempre le stesse. Ovviamente in tutto questo emerge la figura di questa Prudence, che riesce a prendere una storia del genere e farci del denaro, e quando si è stufata del marito mandare via anche lui e partire per conto suo, perché è tipico di costoro resistere poco con gli uomini. Continuiamo su questo filo. Nel capitolo intitolato La necromante, a un certo punto tu scrivi: il mio è il punto di vista di un illusionista, e ad attivarmi non è mai il sovrannaturale in sé, ma il cortocircuito tra il sotterfugio e la fede mistica, l'imbarazzante filo rosso tra l'inganno e il miracolo, la sproporzione tra il raggiro e le sue implicazioni spirituali. Allora, io vorrei chiederti di raccontarci un po' meglio cosa intendi dire con questa frase, e anche mi chiedo, e questo mi sembra molto legato al discorso che facevi fino a poco fa, quanto ci sia anche un lavoro di critica che lavora un po' in secondo piano rispetto alla dimensione morale dell'agire di queste donne. Questa frase che abbiamo letto, cioè sotterfugio, inganno, raggiro, sono tutte azioni da persona cattiva. Ma quando le cattive e i cattivi sono persone che vivono una condizione che è una condizione subalterna, la valutazione dell'agire necessita di un cambiamento di prospettiva, e quindi volevo chiederti... Sì, io per tanti anni ho lavorato come sbirro della scienza, stavo sulla soglia, e collaboravo con il CICAP, per cui mi affidavano dei casi che dovevo verificare per controllare se c'era del paranormale o meno, e non c'era mai paranormale. Trovavamo sempre il trucco e dicevamo: no, fuori, qua c'è un confine che è molto chiaro. Per cui con quella idea in mente era molto facile dividere il bene dal male: noi eravamo i buoni e chi faceva gli inganni erano i cattivi. E invece mi sono reso conto davanti a queste figure che questo confine è un confine molto discutibile, perché tutte queste donne hanno utilizzato il raggiro, l'inganno, la frode per obiettivi che mi sembrano sacrosanti, per cui si è un po' incrinata il mio ruolo, mi sono sentito un po' a disagio, no? A presidiare quel confine. E quindi dopo una serie di libri in cui svelo trucchi di vari personaggi, per esempio nel 2003 ho scritto un libro che spiegava i trucchi del sensitivo torinese Gustavo Roll, in cui sono netto: costui utilizzava degli inganni e delle frodi per fare le sue cose, ma costui era un uomo dell'alta società torinese per il quale non ho mai provato questa pietà che invece mi hanno invocato costoro. Davanti a queste donne mi sono sentito molto in difficoltà a dire ah, imbroglione, perché è sacrosanto quello che facevano. In particolare la necromante era una poverissima cuoca di provincia del torinese che si era data come obiettivo di arrivare al re Carlo Alberto. E questa scalata sociale l'avrebbe raggiunta con la magia. Lei era una abilissima ventriloqua, ma nessuno lo sapeva, e a lei bastava indossare un braccio di un abito molto ricco, lei non aveva i soldi per comprarsi un intero abito, comprava un braccio, un abito buttato, si nascondeva dietro una porta, lo faceva spuntare, e i nobili dell'epoca, sentendo questa strana voce dell'aldilà, erano convinti che apparisse la madrina di Carlo Alberto, buonanima, perché era questa Savoia in odore di santità. Per cui, grazie a questo raggiro, questa donna riesce a fare questa, inizia a essere presa sotto la sua ala da alcuni conti, fa più o meno il percorso che ha fatto Gustavo Roll per arrivare ai governanti. Infatti si dice che Roll abbia incontrato Kennedy, tutti i vari presidenti. Lei ha fatto lo stesso tragitto, ma partendo da una condizione sociale di classe infinitamente più bassa, era povera, non era nobile, era poverissima, faceva la cuoca, e arriva al re. E al re, a un certo punto, non finge, mi spiace dire finge, vede lo Spirito Santo svolazzare invisibile, svolazzare per la stanza, lo afferra e le rimane impigliata nella mano una piuma, quindi regala al re una piuma dello Spirito Santo, e il re prende in mano questo oggetto come una reliquia e la mette tra le sue cose, racconterà sui suoi diari, a un certo punto ha ricevuto tra le mani una piuma dello Spirito Santo che arrivava dal pollaio della signora. Io davanti a dettagli come questo, di una donna che prende una piuma di un'oca del suo pollaio e arriva dal re e trasforma questa piuma in una reliquia, e il re arriva a raccontarlo nelle sue memorie, poi quando si rende conto del raggiro dopo qualche anno fa ritirare e bruciare tutte le copie della sua biografia, per cui questa storia non doveva arrivare a noi, e se io l'ho potuta raccontare è stato grazie a due scrivani che hanno disobbedito ai Savoia e hanno copiato anche i paragrafi che non andavano copiati, quelli con il nome di Carlotta Bongiovanni. Oggi sappiamo che si chiamava così grazie a due disobbedienti che hanno detto vabbè, era un frolloccone, però bisogna ricordarcelo, e oggi lo possiamo celebrare Carlotta in questo modo. Beh, dicevo, davanti alla sproporzione tra la piumetta e l'effetto mistico che ha creato, io resto allibito. Per cui non ho pensato questa volta di scrivere un libro di debunking, non è il primo obiettivo, io racconto come facevano, non resisto perché è troppo bello, ma non è l'obiettivo. Il mio obiettivo non è dire il paranormale non esiste, costoro lo emulavano in questo modo. A me interessa far vedere come delle donne lo abbiano utilizzato con degli effetti sproporzionati. Che cosa ci dice questa cosa? Che il potere non è potente come sembra, perché se basta una piuma per tirarlo giù, allora è interessante. Questo gioco va praticato ogni giorno. Io ho una web serie in pillole che rilascio a cadenza settimanale, e molto spesso utilizzo il femminile sovraesteso per riferirmi a chi mi ascolta, però sempre solo alla fine, quando uno non se lo aspetta, per cui l'ultimo episodio si chiude con restate sintonizzate, e i maschi che sentono questa cosa hanno un flash di fastidio. È una lettera singola, perché tra sintonizzati e sintonizzate c'è una piuma di differenza, ma le reazioni che ricevo via mail sono pazzesche, e io adoro mettere il dito, perché quando si trovano queste sproporzioni, allora si sta titillando il punto giusto, e forse può dire infastidire il potere vuol dire trovare il singolo granellino che, messo nel posto giusto, incasina il sistema. Io ne ho fatto una bella raccolta in questo libro. Anche perché il maschile sovraesteso in fondo lo passiamo da millenni. Sì, adesso raccontavi, mentre raccontavi, dice, non resistevo a non comunque svelare i trucchi utilizzati da queste donne in scena, no? E però appunto qui mi sembra che sia il perfetto trampolino per farti raccontare un nocciolo centrale del tuo lavoro, no? Che è quello del concetto di Smark, Maria, che è fra l'altro quello con cui, quando ti ho conosciuto, prima di conoscerci poi di persona, mi hai proprio cambiato prospettiva, e credo che abbia molto a che fare con questo. Ognuno di noi pensa di andare a vedere uno spettacolo di illusionismo e dice vabbè, ma se mi raccontate com'è il trucco, non mi diverto più. In realtà tu attorno a questo hai costruito un approccio che è differente e che credo poi si rispecchia anche in tutti i tuoi lavori, dalle pillole Mesmer a questo libro, agli altri libri. Quindi ti chiederei di raccontarci. Lo racconto con un aneddoto. I più grandi illusionisti viventi in questo momento si chiamano Penn e Teller, sono due che lavorano a Las Vegas, cercateli online perché trovate delle cose fatte da loro strepitose, sono i Frank Zappa della magia, quindi veramente siamo a quel livello di rottura e pur essendo degli anarcocapitalisti con cui nulla condivido politicamente, però artisticamente sono irraggiungibili. Loro a un certo punto dello spettacolo spiegano: in questo momento stiamo montando sul palco l'illusione che vi presenteremo. Se voi terrete gli occhi aperti, vedrete esattamente come è montata e quindi non vi stupirete. Se invece volete la sorpresa, chiudete gli occhi, vi diremo quando aprirli e sarete illusi, vivrete l'esperienza della meraviglia. Scegliete. Piacere cognitivo o piacere dello stupore puro? Danno 10 secondi alla gente per decidere e poi iniziano a montare. E il pubblico in quel momento si trova davanti all'alternativa cruciale. Lo voglio sapere il trucco e mi rovino la sorpresa? Spoiler o no? È difficile decidere. Ed è bello perché loro ti fanno toccare con mano il fatto che bisogna decidere. In realtà quello che dicono giustamente quelli che tengono gli occhi chiusi è che se vieni con una persona amica si possono provare entrambi i piaceri. Io ho recuperato dal wrestling questa terminologia. Nel mondo del wrestling esistono due categorie di spettatori e spettatrici. Ci sono i mark e le smart. Gli smart. Chi è smart, intelligente, sa perfettamente che dietro al wrestling ci sono dei copioni scritti da autori e autrici che decidono che quei due adesso si fanno la lotta, poi dopodomani nello special faranno pace, eccetera. E anche le botte che si danno sono accompagnate, perché tutto questo deve essere uno spettacolo e serve a fare soldi. I mark invece sono le persone ingenue, che invece credono veramente alla potenza dei colpi, che si facciano veramente male, che questi si odino. Si chiamano mark in memoria delle fiere durante le quali le persone che ci cascavano più spesso alle scommesse fatte dai vari stand dove era impossibile vincere, venivano marchiate dalla famiglia che gestiva la fiera, venivano marchiate segretamente con un gessetto sulla spalla dietro, così gli altri degli altri stand dicevano: oh guarda, vieni qua a fare questo gioco, ed erano i marcati, no? Quelli ingenui, quelli che più facilmente ci cascavano. La platea di chi guarda il wrestling in realtà è composta da una terza categoria, che è quella che ci affascina di più, che è quella che mette insieme l'essere mark e l'essere smart, che ha il nome di smark, mette insieme le due parole. Gli smark sono quelli che sanno che è tutto finto eppure riescono ad apprezzare quello che vedono. Siamo tutte e tutti smark quando alla fine di Titanic piangiamo come dei cavalli, quando va giù DiCaprio. Noi lo sappiamo che quella è una piscina, ma il film ti ha preso così tanto che riusciamo a piangere. Lì stiamo dimostrando una smarchitudine perfetta. Ma l'essere smark è un'attitudine difficile da mantenere, un equilibrio fragile. Il tipo di spettacolo a cui ci esponiamo ha tanta responsabilità, per cui davanti a un illusionista che sminuisce le sue robe è difficilissimo essere smart, perché vedi il trucco, lo capisci. Di fronte a uno che ti vuol prendere in giro eccessivamente, millantando di sacri poteri, è meglio essere smart e dire ma che essere smart richiede una certa coltivazione di quell'equilibrio. Nel libro cerco costantemente di coltivare questo in chi legge, e cioè di far vedere la prospettiva di chi osservando queste cose le vedeva con occhi sgranati e non capiva, e al contempo la genialità tecnica, fisica, corporale di queste persone che parlavano di mentalismo, ma in realtà utilizzavano il corpo, le carte nelle maniche, i fili, i magneti, per produrre degli effetti che invece sembravano completamente smaterializzati. Giocando su entrambi i registri, non è un libro di scienza, non è un libro di narrativa pura, perché le storie sono vere, ma cerca di essere entrambe le cose, per cui è difficilissimo da mettere in libreria, perché non sai dove metterlo. È divulgazione scientifica, non solo. Che cos'è? Storia? Non è solo, non è un romanzo, però narrativa di viaggio? Va bene, qui entro, intanto mi scuso se sto disturbando tutte le riprese, ci ti rivedo che ogni tanto Cinzia mi guarda male. Ma come vedete siamo in tanti e quindi ci mancano le sedie e le panche. Io dopo questa domanda tornerò a cercarne altre, perché vedo varie persone in piedi. Allora, Franco vi sta accompagnando nella rassegna di queste protagoniste. Io vorrei fare una domanda così un pochino più generale, no? A me questo, leggendolo, è sembrato un libro di luoghi, di tanti luoghi. Il primo luogo è quello della ricerca storica, ovvero il luogo del passato, che è un luogo per definizione inabitabile, eppure un luogo che non riusciamo mai a lasciare e non si può lasciare, no? E questo è anche per attirare l'attenzione sulla filia, sull'amore, sulla passione che tu hai messo nel ricercare la storia di queste protagoniste, a volte a partire da un taglio di giornale, da una notizia. Il secondo luogo, e mi ricollego qui, è quello proprio del libro, della dimensione fisica, dell'intercetta tra la tua vita, perché tu sei anche un protagonista del libro, e appunto lo svolgimento del libro. Credo che questo sia un libro che in qualche modo rappresenta un oggetto narrativo non identificato, secondo la teoria dei Wuming, ai quali tu sei anche legato, perché tu appunto sei dentro alla rete di relazione, il collettivo che i Wuming hanno trovato, e tutto il libro è punteggiato, trapuntato dalle tue soste al bar nelle varie città che appunto, tornando al luogo fisico e geografico, si snodano, diciamo, tra il Piemonte, l'Alta Savoia fino alla Francia, luoghi che tu hai anche visitato, se non ho capito male, per lavoro, no? E quindi al bordo delle tue trasferte lavorative hai condotto questa ricerca che in parte ci viene restituita nel suo fascino anche dalle immagini in bianco e nero, dalle stampe che tu hai saputo mettere dentro nel libro. Un altro luogo che è sempre collegato qui è quello che tu ricordi nell'ultimo capitolo, dove riporti una lunga conversazione che hai avuto con Wuming 1, e quindi è il luogo, secondo me, della relazione, di come questo libro si inserisce in una costellazione di libri. Noi qui sul tavolo ve ne abbiamo messi molti, uno lo citerò tra poco, la cui di Comprotto appunto c'è, ma poi alzatevi e guardatevi, questi libri ci sono quelli di Filomena più sottile che tu anche ricordi, ed è appunto una costellazione di libri, perché come oggi mi dicevi non si parla di un libro, ma si parla di una famiglia di libri. E la famiglia mi porta appunto all'ultimo luogo, che è quello del limite, è quello del margine, no? E quindi qui abbiamo messo un libro splendido, li vogliamo vendere tutti quest'anno in libreria, tutte le copie dell'Elogio del Margine di Bellux. Ecco, io penso che le tue protagoniste vivano dentro un margine, no? Un margine che però riesce a sviluppare appunto la narrazione, perché il libro di Bellux, chi lo ha letto lo sa, ha questo tratto straordinario, no? Quando lei racconta di quando si va al cinema e una donna afroamericana non riesce a identificarsi in nulla di ciò che vede nello schermo, perché nulla la rappresenta, e però in quel punto si apre uno spazio di conoscenza, di critica, di confronto, quasi antropologia obbligata, no? Di chi appunto è straniato dal mondo, di chi è piazzato appunto in un margine, e però da quel margine ha la forza appunto di raccontarsi il mondo e di capire com'è strano e com'è oppressivo. Ecco, io penso che tutte le tue protagoniste vivono in margine, e secondo me è importante anche che noi capiamo che tutte e tutti e tutto noi appunto viviamo in un margine, e di riconoscerlo. Ti chiedo appunto quali, e di dire magari dire due parole anche su questi libri, e ce ne manca uno perché le abbiamo già vendute tutte le copie, che sono Le favole del Rincanto di Stefania Consigliere, di Deriva Prodi, anche questo ve lo consiglio moltissimo. Ti chiedo così di dire due parole su questa famiglia di parentele, di sodali e sodale, no? Insomma, che abbiamo. Beh, ho qui Franco che quotidianamente segue, con cui c'è uno scambio praticamente quotidiano negli scazzi, nei momenti di depressione è un bastone, nei momenti di gioia, cioè è una delle persone più importanti, quindi essere qua con lui è per me un onore enorme. Da qua vedo Selene Pascarella, autrice di Pozzi. Selene mi ha insegnato la pietà con cui guardare queste personagge ambigue, su cui è facilissimo avere uno sguardo malsano e severissimo. In un altro dei suoi libri, che Tabloid Inferno, scrive un capitolo su Anna Maria Franzoni che fa venire i brividi per la pietà che riesce a invocare sul demonio incarnato, perché chi quale personaggio pubblico è stato, forse no, Vanna Marchi meno comunque, ma visto che io parlo di un sacco di Vanna Marchi nel mio libro, che è un'altra strega moderna su cui è facilissimo agire tutto l'odio possibile, Selene riesce poi in Pozzi, quello che è lì, ha un modo di raccontare quel margine, la feccia più bassa dell'Italia, con un amore, una vicinanza, è una maestra per me, per cui sono felice di vederla lì. Di fianco c'è Roberto con la Q di Complotto. A un certo punto del libro una di queste protagoniste si trova in una situazione orrenda, perché sua madre veniva chiusa in un armadio per fingere di essere invisibile. Prestava la voce a una sfera sospesa in mezzo alla stanza, perché suo padre faceva l'illusionista, e la gente pagava per vedere la donna invisibile, che era in realtà la mamma, che era nascosta in un armadio, che per ora doveva star lì, immaginate quando aveva il ciclo, però doveva andare in bagno, doveva tossire, che era impossibile, perché si sarebbe svelato il trucco, un inferno di vita, già solo a fare l'assistente del mago. La figlia si trova a rivivere la stessa esperienza, ma al cubo come incubo, perché un giorno si sveglia e si trova in manicomio, non capisce perché. Cosa c'è finita e qual è la parentela tra suo padre illusionista e questa condizione che è identica a quella della madre, con l'aggravante che lei è sparita davvero, perché non ci esce più da quell'armadio, è un manicomio, alla famiglia dicono che è morta e lei non ha modo di uscire. Lei, tra i vari tentativi che fa per uscire, inizia a cavalcare una terapia, una teoria del complotto che era in circolo per la Francia di quegli anni, che è identica a QAnon, la teoria moderna che ha portato la gente ad assaltare Capitol Hill. Oggi ci sono i sotterranei sotto Central Park dove i bambini vengono sequestrati e sostituiti ai governanti. All'epoca Orléans, sotto il manicomio, c'erano reti dove i governanti rapivano i bambini, ce li portavano, gli cambiavano la faccia e una volta tirati fuori li sostituivano ai governanti. La stessa identica storia che Buming racconta e smonta nel suo libro me la ritrovo a metà 800, non solo raccontata ma addirittura usata come chiavistello per uscire dal manicomio. Non vi dico ovviamente se ci riuscirà o meno, perché sarebbe uno spoiler troppo grosso, ma a un certo punto mi devo fermare, mi siedo davanti a casa di Giovanna d'Arco a Orléans, prendo la cornetta e chiamo Roberto, Buming 1, dicendogli: un attimo, io sono nel 1868 e mi sono imbattuto in una storia che invece è successa l'anno scorso, che diamine mi sta capitando, e insieme iniziamo questo scambio molto fertile. In pratica il gioco è stato quello di imparare dalla lettura di questo libro a prendere uno stile di scrittura e cercare di portarlo nelle pagine di Incantagioni. Qual è l'argomentazione di Roberto in questo libro, nel suo libro? Non basta smontarle razionalmente le fantasie di complotto, perché la fantasia di complotto solletica un desiderio di meraviglioso che è innato ed è prezioso, per cui vanno in qualche modo sostituite con delle narrazioni altrettanto meravigliose. Per cui quello che faccio nel mio libro è cercare di far vedere l'incanto di queste storie e in che modo una storia becera, orribile, che oggi ha portato a quello che sapete ed è indorsata dai peggiori personaggi sulla scena pubblica, può diventare invece una chiave per liberarsi da una situazione di oppressione assolutamente da incubo. E quindi in qualche modo il mio libro, secondo Buming 1, è uno spin-off del suo. Belux, la cito proprio in chiusura, quando lei dice: il mondo non cambierà finché tutti gli uomini non saranno diventati femministi. Questo che cosa vuol dire? Ripartiamo dal fatto che noi maschi eterocis facciamo difficoltà a parlare di queste robe. È chiaro che dalla nostra posizione di privilegio parlare di femminismo è sempre un po' così, è giusto guardarci anche con un po' di sospetto, e infatti è sempre utile esporsi al giudizio delle compagne. Io nell'ultimo capitolo, quando Belux dice questa cosa, dico: maschi, che facciamo? Non lo so, potremmo iniziare nei circoli magici e far la gara a chi ha la bacchetta magica più corta. E dopo averlo letto, la mia amica Daniela mi fa: voi maschi sempre fare gara, perché poi l'importanza è la gara. Caspita, è vero, non me ne ero accorto, cioè, perché se invece del lungo sostituiamo il corto, resta comunque la gara. E quindi in qualche modo un libro lo puoi chiudere tutte le volte che vuoi, ma c'è sempre qualcuno o qualcuna che ti fa notare che la tua visione era un po' miope. Quindi troverete magari un sacco di limiti in tutto questo. Io sono arrivato lì, Daniela mi ha fatto vedere questa roba che mi ha molto divertito, perché in effetti sempre di gara si tratterebbe. Però sono tutti libri che ampliano quello che ho scritto. L'altra roba che dicevi, a proposito della fisicità, quando sono andato a Lione per cercare i documenti di questa sonnambula, non si trovavano, perché il nome di questa sonnambula era stato cancellato a penna su tutti i quaderni che riportavano le sue visioni. Il quaderno fatto a mano e in copia unica, sepolto in un caveau della biblioteca di Lione, quindi è visibile solo in microfilm, quindi non ho potuto neanche toccarlo fisicamente, ho dovuto vedere il microfilm, e il microfilm naturalmente è pieno di scarabocchi. Risalire al nome di Costei è stato faticosissimo, ma la sua storia è divertentissima, perché costei praticamente veniva usata dai massoni, veniva messa in ipnosi, perché lei sotto ipnosi vedeva purgatorio, paradiso, inferno. E quindi questi dicono, ma vuoi vedere che ci abbiamo un occhiale per descriverlo dal di là e fare la mappa di paradiso, purgatorio, inferno? Potentissima. Lei, quando capisce che questi cascano a tutto quello che lei racconta, inizia ovviamente a fare come quelli che devono vendere una serie Netflix. Io ti racconto il primo pezzetto, però domani mi devi reinventare perché ti fatti do la seconda puntata. Va bene, va bene. E quando lei capisce che li ha completamente in pugno, inizia a dire: sapete che cosa mi hanno appena detto gli angeli? Che dovete portarmi qui in carrozza, basta farmi venire a piedi. Agli ordini, signora. Domani invece dovete iniziare a pagarmi gli studi, perché gli angeli, questo mi hanno chiesto, vogliono che io mi... E questa praticamente inizia a raccogliere una serie di privilegi dopo l'altra, facendo leva sulla ingenuità di costoro, ricchi, nobili, che con una povera malata e indigente iniziano a sganciare quattrini, servizi, privilegi. E quando poi si accorgono della cosa, iniziano a damnazio memoria di questa persona, viene cancellato il nome di Jean Rochette da tutti i quaderni, e sto quaderno doveva andare perduto, noi dovevamo dimenticarla questa storia. Per un'incredibile sequenza di fatti stranissimi, questo quaderno resiste a un'esplosione di casa di Villermoz, a un assalto dei rivoluzionari, e arriva fino a noi ed è in una biblioteca pubblica, con grande orrore dei massoni moderni che pretenderebbero di tenerli nei loro archivi, e invece in una biblioteca pubblica, se voi lo chiedete vi arriva la tesserina e lo potete accedervi nel giro di pochi minuti, cosa che fa orrore ai massoni, invece noi siamo felicissimi e felicissime, e quindi l'abbiamo potuto leggere e raccontare anche questa storia. Ma la fisicità di quel ghirigoro, di quella scarabocchio, del libro che ci è giunto nonostante le esplosioni, che adesso si è smaterializzato nel microfilm ma comunque è arrivata ai miei occhi. Poi un'altra roba super inquietante, quando andate su Google a cercare i vecchi giornali e a un certo punto vedete delle dita, perché la persona che ha scannerizzato questi libri ha lasciato per sbaglio il dito, quindi ci sono delle unghie mal curatissime, delle unghie sporche, e c'è questa irruzione dell'umano che veramente ti mette in uno stato. Non è affatto tutto disincarnato, lì c'era una cristiana, un cristiano che, o un pagano che ha dovuto prendere un sacco di tempo. Qual è automatismo? È qualcuno che ha passato le domeniche curvo sui libri. Per cui mentalismo, però la bassa materia ne è un ingrediente fondamentale. Ne approfitto per dire, a riprendere una cosa che diceva Pamela, per dire che Mariano nei suoi lavori di ricerca, dal punto di vista del metodo storico dell'uso delle fonti inappuntabile, che mi sembra una cosa importante da dire, e che mi permette anche di presentarvi qui e mostrarvi, poi dopo lo vedrete, Mariano, nel momento in cui è stato pubblicato il libro Incantagioni, non contento, ha autoprodotto, come aveva già fatto in passato, quest'altra pubblicazione che è Incantagioni il dossier, dove praticamente ha raccolto una serie di documenti trascritti, moltissime immagini di documenti, illustrazioni, fotografie dei luoghi che sono legate alle storie che sono raccontate in Incantagioni. Ecco, questa era Prudence Bernard a Torino durante il primo spettacolo di magnetismo animale mai andato in scena in Italia. Non c'era stato spazio per una foto così, per un'immagine così grossa sull'originale, ho detto la riportiamo nel dossier. Adesso passerei alla parte dedicata alla chiaroveggente, e qui, oltre a chiederti di narrarci brevemente, come hai fatto finora, la storia della donna protagonista, e ti chiedo anche di raccontarci e spiegarci perché a un certo punto scrivi che questo è un caso che ha un'intima natura letteraria, e fa riferimento anche agli UFO, e questo forse è anche il momento perché tu faccia un po' di chiarezza su cosa si intende per mentalismo, magnetismo, illusionismo, paranormale. Non so se vuoi farlo anche con qualche dimostrazione. Allora, qui tra il pubblico c'è Lorenzo Paletti, che, hai visto che hai detto UFO, ha scritto un libro sull'autopsia dell'alieno. Non so se ve la ricordate, era andato in TV qualche anno fa, e il mistero era: è vera o è una messa in scena? E ha scritto la migliore costruzione che credo sia mai stata pubblicata su questo mistero, ed è un libro graficamente eccelso, che io ho adorato, quindi mi complimento con Lorenzo davanti a tutti, si intitola L'autopsia dell'alieno. La prova. Ed è un libro che vi consiglio perché gioca tutto su quella linea, ma è vero o no? E c'è questa fascinazione dello smontare senza però rinunciare al fascino che provoca questa storia. Perché era una storia che quando era uscita questa autopsia andata in TV davvero spiazzava, perché sembrava veramente sembrava vera. Io mi muovo sugli stessi temi, in particolare nomino gli UFO perché rarissimamente, quello è un caso rarissimo, rarissimamente chi studia gli UFO ha a disposizione un pezzo di lamiera che potrebbe arrivare dal disco volante. Il 99,9% delle cose con cui hanno a che fare gli ufologi e le ufologhe sono racconti, testimonianze, io ho visto questo, quindi sono racconti dettagliatissimi, pieni di particolari, ma sono sempre storie. Tipicamente il paranormale è, nella quasi totalità, l'analisi di racconti, di narrazioni, e quindi è giusto chiedere agli scienziati e alle scienziate di occuparsene, ma la narratologia è altrettanto importante nell'affrontare i racconti sul paranormale, perché non si capisce cosa è successo in certe occasioni se non si conosce la filologia, se non si studiano le tradizioni, in che modo quella stessa storia si ritrova in tutte le culture, in tutte le latitudini, se non si studia in che modo la letteratura precedente ha influenzato la percezione e quindi il racconto e gli schemi narrativi imposti su quell'esperienza, eccetera. Per cui c'è molta poca distanza tra i racconti moderni dei dischi volanti e quelli dei draghi fiammeggianti in cielo all'epoca dei romani. È cambiata il vestito, la skin di ciascuna storia, ma lo stimolo visivo è sempre quello. La storia della chiaroveggente è particolarmente esemplificativa. Lei era una bambina di 11 anni che viene portata a Parigi dal papà e dalla mamma, da Montpellier, per partecipare a un concorso. C'era un concorso per chi avesse dimostrato di possedere poteri paranormali. Il potere da dimostrare era la possibilità di leggere con una benda sugli occhi. Léonide Piger riusciva a leggere, riusciva a leggere con una benda sugli occhi a patto che fosse la benda fatta da sua madre. Aia. E qui capirete che tutto il braccio di ferro tra la famiglia Piger e la commissione sta nel "e come mai solo quella?" E se noi invece non le mettiamo una benda, le mettiamo tipo quelle robe che si mettono ai cani dopo le operazioni, quei collari che si allargano, che mascherano, il libro viene tenuto sotto in vista, eccetera, no, e il padre e la bambina riuscivano sempre a spiegare perché scientificamente c'era proprio bisogno di quella benda. Naturalmente non vi dico come va a finire, ma che cosa succede? Che questa bambina presenta questo numero con enorme successo nella sua casa parigina, davanti a tutti i giornali, agli autori dell'epoca, va a vederla George Sand, gioca una partita a carte George Sand vede, mentre la bambina è bendata, riesce a giocare a carte, mentre questi scienziati non riescono mai a metterla sotto prova, perché lei riesce sempre a sfuggire. Insomma, lei riesce a convincere l'opinione pubblica ma non la scienza. E oggi, a distanza di un secolo e mezzo, che cosa ci rimane? Racconti, centinaia di pagine e di lettere ai giornali e di editoriali e di attacchi e critiche contro di chi sosteneva l'autenticità di quel fenomeno e chi sosteneva che non lo era. Io mi dichiaro da subito, io non ci credo sbirciasse, ma questo non è importante. Cito tranquillamente un mio collega che invece è convinto dalla lettura di tutti i documenti che invece era vero quello che faceva, si chiama Bertrand Mehoust, è un sociologo francese, perché alla fine forse non è importante tanto il braccio di ferro, chi ha ragione, ragione io, ragione tu, ma al di là di questo binarismo accorgerci che l'illusionismo, l'inganno, lo stratagemma agisce esattamente su quel confine grigio su cui la magia da sempre si muove, da sempre. Quando vediamo la magia, il dubbio che ci sia il trucco ci viene ed è sano, non è solo sano, è strutturalmente intrinseco al tema della magia. La magia è un margine, è un limite, è un confine, e quindi a cercare di tracciare confini netti non funziona mai. E invece la chiaroveggente ci consente di riconoscere questa natura profondamente letteraria di questi racconti. E io sono cambiato interiormente, perché mentre qualche decennio fa, quando sentivo qualcuno che mi raccontava dell'ennesima esperienza paranormale a cui avevo assistito, l'ascoltavo con quel senso di superiorità da illuminista che dice "Ah, davvero uno può credere a queste baggianate perché non ha conosciuto la scienza?" Devo dire che restare su quel confine risveglia una serie di atteggiamenti un po' diversi, e io spero di avervi invogliati a tentarlo questo esercizio smart. Allora entro qui con la mia ultima domanda, perché mi hai offerto il sinistro, non il destro, per farlo. Hai citato la scienza, io credo che il tuo libro, la tua interessante, svagata eppure rigorosa, precisa rivisitazione di questi episodi rimarrebbe, sarebbe rimasta nell'alveo delle cose belle e interessanti se tu invece non l'avessi innalzata, se non l'avessi resa qualcosa di più, appunto partendo da qui per capire che cos'è la necessità dell'incanto e del rincanto. E il discorso che tu, che tra l'altro sei uno scienziato, diciamo, in parte nella vita, no? Perché sei un informatico, no? Ecco, il modo in cui hai saputo articolare, riprendere, veniamo comunque da un periodo che di nuovo ce l'ha posto sotto il naso, no? Il discorso, la dialettica tra la scienza e la società, no? Fuori forse da un momento più critico che è stato quello degli anni 70 e così via, e comunque ricordandoci tutti e tutti e tutto che verso lo scientismo che ancora abbiamo di fronte un atteggiamento critico è importante, è essenziale, no? E tu invece hai sulle orme, credo, comunque in alleanza, in simpatia con Stefania Consigliere, che ho ricordato prima, rivalutato, prima detto da Illuminista, ecco, rivalutato un'altra corrente con la quale io pure di pensiero ho avuto periodi difficili, conflitti, e sicuramente leggendo anche sul sito, se vi interessa, di Stefania Consigliere, in parte recuperato, ovvero il romanticismo, no? Inteso come filosofia e non come sentimento. In questo crocevia di tante cose che sarebbe lungo, non complicato, perché poi in realtà leggendo si capisce subito, no? Però a me quello che importa dire è che cosa è importante incantare e reincantare, no? Il tuo libro si apre, tu prima, Franco prima ti ha aiutato, ti ha suggerito di parlare dell'ultima storia, che forse era più quasi impossibile da leggere, no? Perché è una storia davvero, ma il tuo libro si apre con un'altra storia impossibile da leggere, ovvero quella di una contadina che all'inizio dell'Ottocento in una fiera, girando con un maiale che era, come si dice appunto, così magro da essere più pronto per la fossa che non per un prosciutto, no? Incontra un importante, affermato appunto mentalista, illusionista, che era Duconte, la quale così la prende in giro, no? E dopo averle chiesto quante vuoi per il tuo maiale, quando lei risponde no, 100 franchi non bastano e così via, lui da ventriloquo fa parlare il maiale in maniera che rende ridicola la donna, che poi viene di fatto anche aggredita in questa fiera. Tu ti domandi che cosa può aver spinto una persona in fondo affermata, di successo e così via, come cosa appunto a comportarsi in questo modo e poi a ricordarlo quasi con piacere appunto nella sua autobiografia. Ecco, io penso che ciò che emerge da questo libro è da un lato appunto la volontà, l'importanza che viene assegnata al fatto che dobbiamo ricominciare a raccontarci appunto con l'incanto, dobbiamo ricominciare a trovare amore, a narrare con amore queste storie. Dall'altro lato è cosa deve essere rincantato, quello che deve essere rincantato è l'oppresso, quello che sta ai limiti, quello che sta ai margini, quello che non ha voce, no? E che però, come tu stasera ci hai dimostrato, no? Può prestarsi a una narrazione che è incredibilmente appassionante, interessante, che ha anche spazi di divertimento, di umorismo, così come ha spazi invece di crudeltà subita e di commozione, perché ci sono alcune pagine del tuo libro che davvero inducono al pianto. Ecco, io credo che sia questa la dimensione come dire, più rilevante di quello che stai facendo, perché poi è tutto bello, no? Però a questo punto, il fatto appunto che si possa ritornare a una narrazione nostra, con gli strumenti, con la cassetta degli attrezzi delle narrazioni, e quindi in parte anche come dire, con lo stile, con la gerarchia dello stile, con i trucchi buoni dello stile, no? Il fatto che tutti si narrino, e questo anche, come dire, nella vita quotidiana, cioè anche il nostro discorso quotidiano ti dovrebbe rincantarsi e sapere rincantare questo. Stefania Consigliere, che appunto è l'ultima di quelle che citiamo della nostra galassia di personaggi, nel suo libro Favola del reincanto a un certo punto cita Max Maven, un mentalista affermato americano, che dice: nel mio studio ho una scatola magica. Funziona così: tu prendi un oggetto, te lo metti dentro, torni dopo un'ora e quell'oggetto è freddo. Io non so voi cosa ne pensiate, ma se non resistete alla tentazione di chiamarlo frigorifero, avete perso del tutto il senso dell'incanto. Cercare di raccontare la realtà in questo modo è quello che Stefania fa per tutto il suo libro, che è altro che incantevole, è stata la mia lettura più importante della fase pandemica. E mi sono reso conto di questa libertà che mi sono trovato occupandomi di storia. Se io fossi un romanziere, avessi portato al mio editor la storia delle lumache che copulano, eccetera, mi avrebbe detto: guarda, non facciamo narrativa per i piccoli, cioè ci vogliono storie credibili, stiamo parlando con degli adulti, metti delle robe che siano sensate. Invece il lusso che hai quando ti occupi di storia è che quando trovi delle storie assurde le puoi raccontare senza che nessuno possa dirti nulla. E questo è divertentissimo, perché quando trovi delle storie al limite, assurde, ridicole, anche da incubo come l'ultima che citavi, è un piacere raccontarle. Perché? Perché da un lato stai cercando di dare luce a degli angoli dove magari con difficoltà metteremo il naso, però attratti dal deforme, dal ridicolo, dal paradossale, dal grottesco, beh, forse un po' di attenzione te la do. C'è una memorabilità in questi angoli che davvero basta guardarla. Io adesso sto costruendo un automa che batterà su un campanello la carta pensata da una spettatrice. Lo tirerò fuori adesso a settembre, che presenteremo il libro di un altro autore bresciano che è Alex Grusconi, ed è un automa che nel Settecento aveva fatto la fama di Pinetti. Dentro questo automa naturalmente dovrò nascondere un oggetto che faccia per me questo trucco che ho implementato con quello strumento elettronico che si chiama Arduino. Io questo strumento l'ho montato dentro il contenitore di uno scopettone del cesso dell'IKEA, perché per me era importante questa distanza tra lo scopettone e il miracolo che ne sarebbe uscito. Per cui tendo ad amare i luoghi bassi per far vedere il loro potenziale. Una cosa che faccio tutte le volte che vado a Londra dalla fermata Hyde Park Corner, purtroppo le donne sono vietato l'ingresso, vado nel bagno degli uomini dove ci sono due file parallele di lavandini e il vetro, lo specchio centrale è crollato. Per cui voi arrivate, iniziate a lavare le mani, vedete il riflesso del lavandino, quindi siete convinti di essere davanti a uno specchio, alzate gli occhi e rimanete sconvolti perché non vi trovate. È l'esperienza del vampiro che si riconosce perché non si riflette. Mi sono fatto fare da un amico una foto appoggiato al vetro che non c'è, e questa foto gira online, la domanda è: com'è scattata questa fotografia? Non c'è il vetro, ma l'idea di dire che il punto più magico di Londra sia un cesso sta un po' in questa dinamica del margine, del basso, eccetera. E l'altra cosa che dicevi a proposito di questa storia finale insostenibile: io sono cresciuto, sono andato nel fine degli anni 70, cresciuto negli anni 80, il mio cervello si è plasmato sui videogiochi, quindi non posso non immaginare che nella scrittura di questo il mio cervello l'abbia ragionata così, e in effetti la sua struttura a 5 livelli è proprio quella di un videogioco che ciascun livello mette alla prova una diversa skill di chi sta giocando, per cui la prima chiaroveggente deve superare una serie di prove, la seconda altre, la terza eccetera, ognuna delle prime 5 delle prove diverse, e alla fine arriva il boss finale, quello difficilissimo da battere, perché bisogna mettere a frutto tutto quello che si è imparato nei capitoli precedenti. Questo deve fare Ersilie Ruy nell'ultimo capitolo, perché le arrivano addosso tutte le sfighe di quelle di prima, ma lei è chiusa in un manicomio senza possibilità di uscire, e quello che rende particolarmente angosciante quella situazione è che non c'è Google all'epoca. Lei era una pianista affermata, ma se tu vai dal direttore del manicomio e gli dici: scusi, ma faccia una ricerca su Google, vedrà che io insegnavo pianoforte, ho anche composto. E il direttore le risponde: ma Google non c'è, non ho modo di fare questa ricerca. Immaginate in un'epoca in cui non c'era facilità fare delle indagini di questo tipo. Oggi con due click ce ne accorgeremmo del misunderstanding. Questo mi ha portato ovviamente a dire: ok, quindi in giro ci saranno questi spartiti. Io non posso ridare voce davvero a questa persona, ma forse riesco a recuperare una delle sue canzoni. E l'ho trovata. Ho trovato uno spartito. Ho chiesto a un pianista che conosco bene, che è mio padre, di suonarmi il pezzo. Ho chiesto alla mia amica Alice: non è che ti andrebbe di cantare la canzone che Ersilie urlava di l'ho scritta e nessuno le credeva, per poterla sentire oggi a distanza di più di 150 anni? E io ce l'ho. Volete che la usiamo come sigla per almeno chiudere questa prima parte? Questa è la voce, non di Ersilie, ma facciamo finta che sia Ersilie perché Alice gliel'ha prestata. Questa è la canzone con cui Ersili avrebbe voluto liberarsi e non ce l'ha fatta. Grazie Mariano. Vediamo se c'è qualche domanda dal pubblico a questo punto, poi il tempo scappa. Vieni, prova a dirla nel microfono così riusciamo a registrarla. È una questione tecnica, scusaci. Grazie. Ciao. Ciao. Ma io era una domanda a voi, era una domanda a tutti, mi sembra che negli ultimi anni, forse ne avete già parlato, forse è una cosa molto ovvia e è sfuggita solo a me, mi sembra che negli ultimi anni l'interesse verso l'interismo, paranormale, eccetera, eccetera, si sia estesa, cioè si è esteso questo interesse a... non so, tante case editrici, tanta gente che fa queste cose tipo Nero, oppure è uscito un libro per di editore che si chiamava Narcocultismo, o è uscito Demonologia rivoluzionaria per Nero che era già una granata, non ci ho capito molto bene, però. E poi vabbè, tornando un po' indietro, sì, delle cose, dei booming sul discorso delle narrazioni, dell'incanto, eccetera, eccetera. Voglio capire se qualcuno che ha un'idea del perché è successa questa cosa, cioè da quando il movimento, ok, o dei movimenti che hanno un'idea, cioè, l'obiettivo sarebbe il cambiamento del reale, ok, hanno cominciato a, cioè hanno abbandonato un po' il discorso, no, non abbandonato, però hanno riconsiderato dei discorsi su, appunto, sullo scientismo, il materialismo, cioè hanno abbandonato il discorso del materialismo, del per andare su sta roba. Perché? Come? Chi è che fa queste cose bene? Senza averlo letto citi due cose che, di cui parlo nel finale, cioè e oggi, cioè, queste sei sono morte tutte, e oggi ci sono Erika Lagalis di Anarcocultismo, Laura Tripaldi che è una delle autrici di Demonologia rivoluzionaria, che sono entrambe impegnate a recuperare il magico a sinistra o negli ambienti anarchici, dove tendenzialmente queste robe a lungo sono state considerate roba della destra, e io lo trovo fantastico. Umberto Eco nel Pendolo di Foucault è molto affascinato da questo meccanismo, lo tematizza e racconta il modo in cui negli anni 70 ci sia stata nelle case editrici un revival, purtroppo molto di matrice più neofascista, eccetera, e molto meno dalla nostra parte, perché a sinistra è più un po' forse a causa del marxismo, insomma, materialista rigido, si è sempre visto con grande sospetto a queste pratiche. Non dico che non sia un sospetto sensato, perché non tutto è oro quello che luccica, però credo che sia irresponsabile lasciarlo al nemico. I booming secondo me sono stati assolutamente molto lungimiranti nel capire l'importanza del mito, nel cavalcarlo, intanto nell'analizzarlo, nel capirlo. Una cosa che fa Roberto Booming 1 in questo libro è quello di riconoscere quel potenziale rivoluzionario in queste narrazioni, anche quando arrivano dagli ambienti più deteriori, di turarsi il naso e andarci dentro per capire che cosa c'è, è un'operazione complicata, difficile. Demonologia rivoluzionaria, per esempio, che è il libro che ha preceduto il mio, siamo nella stessa collana, l'editore mi aveva detto: ti va di fare un libro identico ma sull'esoterismo, cioè questo libro Demonologia è esoterico, il tuo invece deve essere esoterico. E infatti chi lo ha letto, il mio, dice, è un libro molto leggibile. Demonologia rivoluzionaria invece è bello spesso, ci sono dei pezzi che io trovo fantastici, altri che devo ancora iniziare a capire. Per esempio il pezzo sul sole nero di Valerio Mattioli è una luce, Laura Tripaldi, il suo pezzo Mater Dolorosa, mi sono esplose i neuroni per quanto è bello, e ho voluto che fosse lei a presentare il mio libro Incantagioni a Milano, e mi ha omaggiato di questa cosa, trovate la presentazione online perché l'ho lasciata lì a futura memoria. Faccio difficoltà a risponderti storicamente perché sono troppo entusiasta all'idea che questo si possa fare. E per me pensare di essere su questa scia è un insieme, mi eccita e mi terrorizza, però ecco, non siamo i primi, cioè le femministe lo fanno da prima di noi, per cui quando, se facciamo questo discorso tra maschi, spesso arriva la giustamente quella che ti dice: scusate, prima però studiate la storia. Se leggete Silvia Federici vi fa notare che la stregoneria è stata schiacciata, ma addirittura Marx non se ne è accorto, non ha mai incluso le donne nel racconto dell'oppressione, per cui leggere Silvia Federici ti illumina completamente, perché ti rendi conto che la stregoneria è sempre stata quel margine all'interno del quale si coltivavano delle pratiche di resistenza, dei saperi. E la letteratura che oggi trovi, parlavo di Londra prima, di Hyde Park, perché di recente sono stato a Londra, nella libreria esoterica di Londra, che è Treadwell, c'è un settore sulla stregoneria e la militanza fornitissimo, le autrici sono tutte donne, c'è un libro invece sulla stregoneria e il veganesimo e l'antirazzismo, che è strepitoso e parte da un film horror che vi consiglio, che è Get Out, Scappa, e ne è la versione teorica, e fa vedere un filo che lega la stregoneria, il veganesimo e la battaglia per i diritti dei neri, che veramente è di una visionarietà pazzesca. Lei mette in discussione il tema dell'intersezionalità dicendo: l'intersezionalità è una parola di cui ci riempiamo la bocca, quando in realtà esistono modi per far convogliare le battaglie e farle diventare la sola battaglia, e quindi non si incrocia con un altro in un solo punto, come dicono i sostenitori vaghi dell'intersezionalità, ma stiamo parlando di battaglie che convogliano tutte nello stesso filone. E come lei riesce a farlo sulla battaglia per i diritti delle persone razzializzate e il veganesimo è pazzesco, andrebbe fatto per tutte le battaglie. Quando noi amiamo dire che ogni battaglia è tutte le battaglie, e quello è una prospettiva, e lì ci mette anche la stregoneria, per cui per me, io ho preso questo libro per questo motivo, e in particolare lei fa notare che la supremazia bianca agisce sulle persone nere entrando nel loro cervello e convincendole profondamente della loro inferiorità, eccetera, per cui lei dice: è una stregoneria in atto da sempre, da cui dobbiamo liberarci con degli incantesimi, dei controincantesimi. Ma lei non parla di riti voodoo, parla di pratiche, parla di azioni, eccetera, per cui quello con cui ti voglio lasciare è il mio entusiasmo per questo, perché siamo in una fase è l'epoca in cui forse volevo nascere, e che fortuna che sono nato proprio adesso. Grazie per la bellissima domanda. Qualcun'altra, altro che vuole lanciarsi una domanda, il prima è cordiale, insomma, se avete qualche curiosità non c'è da aver paura, credo. Va bene così, direi. Sicuramente Mariano ci ha raccontato moltissime cose, siamo tutti soddisfatti e tutte soddisfatte. E io ringrazio Mariano, ringrazio Pamela e chiaramente le persone che si hanno ascoltato. Io ringrazio tanto che rimaneva non ringraziato, e vi ricordo che davvero, se avete qualche curiosità, se vi ha acceso qualche lampadina, la costellazione di libri della quale abbiamo parlato è lì sul tavolo, è tutto in vendita, potete prendere, poi paghiamo in cassa, perché sennò io sicuramente sbaglierei i conti stasera. Purtroppo noi da Nero abbiamo avuto soltanto 20 copie, ne rimangono due soltanto, di incantagioni, però Mariano ci ha portato il dossier di incantagioni del quale invece abbiamo qualche copia, se volete anche farla autografare e così via. Io vi ringrazio davvero tanto.